A bordo campo di Dario Ricci. Gli aspetti economici e legali dei trasferimenti dei giocatori. Così si intitola uno studio commissionato dall'Unione Europea, in particolare dalla Commissione Europea, che ha voluto indagare sul calciomercato per capirne volumi, crescita, sviluppo e per capirne anche a livello europeo continentale la deriva, perché siamo abituati a leggere anche qui a bordo campo di movimentazioni di denaro sempre più consistenti, flussi sempre più ingenti, ma insomma anche le istituzioni europee si stanno preoccupando di capire come viene veicolato questo denaro, quanto ne viene veicolato, soprattutto come viene ridistribuito per far sì che il gioco più bello del mondo sia effettivamente il più bello, il più equilibrato e che non commetta troppi passi oltre le proprie reali possibilità di crescita. Di tutto questo oggi parliamo con Gianluca Monte, in collegamento in diretta con noi da Bruxelles, responsabile dell'unità sport della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea. Dottor Monte, benvenuto a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie, buongiorno. Allora, dottor Monte, entriamo subito nel pieno del problema. Perché la Commissione Europea si preoccupa di questo argomento e come siete arrivati a mettere in piedi questo report? Diciamo, c'è stato in passato, per l'esattezza, 12 anni fa, nel 2001, un accordo tra la Commissione e le istanze dirigenti del calcio internazionale, la FIFA e l'UEFA, per cambiare il sistema dei trasferimenti dell'epoca, soprattutto in seguito alla sentenza Bosman, quindi legata ad aspetti di libera circolazione dei lavoratori, dei calciatori, e volevamo 10 anni all'incirca dopo quell'accordo fare uno studio, appunto, una valutazione sullo stato del sistema dei trasferimenti e anche in seguito a un altro studio che era stato fatto nel 2009 sugli agenti sportivi, sui procuratori, che metteva in luce alcuni aspetti di poca trasparenza nel mercato dei trasferimenti. Quindi volevamo avere un po' una visione un po' più chiara, precisa degli aspetti, appunto, come dice il titolo dello studio, sia economici che giuridici di questa questione. Questo studio è stato pubblicato, appunto, giovedì scorso e adesso è la base per le discussioni che si terranno ulteriormente con i rappresentanti del mondo dello sport e soprattutto del calcio. Anche perché, dalle sue stesse parole, colgo che avete analizzato due dei catalizzatori delle spese del mondo del calcio: i calciatori, che inevitabilmente con la sentenza Bosman, con la libera circolazione in tutta Europa, hanno visto il loro ruolo svincolato da quelle delle società, per sintetizzare, e quindi la possibilità di godere appieno dei vantaggi del mercato aperto e libero, così come qualsiasi altra tipologia di lavoratore europeo, e quello degli agenti, che si sa sono un bel ricarico sui costi dei trasferimenti. Diamo qualche cifra di quelle che sono emerse dal vostro rapporto per far capire ancora meglio ai nostri ascoltatori. Nel 2011 sono stati spesi più di 3 miliardi di euro in trasferimenti di calciatori, cifra in crescita esponenziale perché 7 volte più grande di quella del 1995, quando il totale era di 402 milioni. Ma quello che colpisce è che contemporaneamente il numero di trasferimenti è soltanto triplicato, dai circa 6.000 del 95 ai circa 18.000 del 2011. Quindi questo, dottor Monte, vuol dire che più che i trasferimenti aumenta il loro valore, no? C'è stata sicuramente un'inflazione nei prezzi, nel valore di questi trasferimenti, che è legata sicuramente, appunto, alla liberalizzazione del mercato dei calciatori in seguito alla sentenza Bosman, ma diciamo questa sentenza Bosman è stata accompagnata anche da sicuramente una crescita, anche quella esponenziale, dei ricavi del settore dello sport e soprattutto del calcio a livello professionistico, perché è un po' 95, gli anni 90, l'epoca in cui cominciano a entrare in campo anche le televisioni a pagamento, che sono quelle che poi soprattutto nella maggior parte dei paesi dell'Europa finanziano il calcio attraverso appunto la vendita dei diritti televisivi. Quindi c'è stato un grande incremento dei ricavi del calcio, soprattutto legato ai diritti televisivi, e nello stesso tempo a questi ricavi più importanti sono state accompagnate delle spese anche molto importanti, da un lato negli stipendi dei giocatori, che sono ovviamente cresciuti, ma anche in queste indennità di trasferimento, che sono diventate appunto, hanno raggiunto 3 miliardi due anni fa, nel 2011. Uno dei problemi che evidenzia il vostro studio è la scarsa capacità di ridistribuire buona parte di questi introiti così ingenti, no? Perché appena il 2% di questo totale va poi alle società più piccole, più povere, con minori capacità economiche. In realtà il 98% di questa torta di amplissime dimensioni rimane nei club più grandi. Esatto, effettivamente ci siamo interrogati appunto sulla pertinenza, la validità del sistema dei trasferimenti, che comunque è un sistema che è unico, diciamo, nel settore dell'economia, è unico, non ci sono altri settori in cui comunque dei lavoratori, in questo caso i calciatori, sono comunque vincolati, perlomeno per esempio in termini di calendario, non possono cercare un nuovo impiego quando pare meglio, devono comunque rispettare per esempio le finestre di trasferimento dei mesi, appunto gennaio oppure durante l'estate, e le indennità di trasferimento. Ed effettivamente la giustificazione che viene data dalle istanze sportive, dall'UEFA, soprattutto dalla FIFA, è che il sistema di trasferimenti serve a garantire una certa solidarietà nel mondo del calcio tra le società più ricche e quelle meno ricche, per cui ci sono questi pagamenti che servono a garantire il flusso di finanziamento dai club che sono, diciamo, più in alto in classifica o comunque a livello di ricchezza, ai club che invece si dedicano più a scoprire e a sviluppare attraverso la formazione dei giocatori. Studio mette in evidenza che questa finalità è ancora alla base del sistema, ma il sistema non funziona così bene, appunto c'è poca solidarietà. Eh sì, insomma, è un sistema che, pur riconoscendo dei piccoli contributi, sintetizziamo, a chi forma quelli che poi diventano gli Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, i Totti e Del Piero, in realtà poi non ridistribuisce quanto dovrebbe a chi investe nella scoperta e nella formazione dei talenti. Quali sono, alla luce dello studio, le proposte e le sollecitazioni che arrivano dalla Commissione europea per riequilibrare questo quadro, dottor Monte? Ci sono delle proposte molto concrete nello studio, per esempio quella che viene chiamata una tassa un po' sul lusso, sui trasferimenti più importanti, che potrebbe essere poi appunto ridistribuita, quindi contribuire in maniera più efficace alla solidarietà tra le squadre, certe limitazioni dei prolungamenti dei contratti, che potrebbero anche servire a limitare l'ammontare di certi trasferimenti, e varie raccomandazioni su come formulare anche i contratti di lavoro. Quindi sono discussioni effettivamente che riguardano proprio anche il diritto del lavoro e la sede che noi, insomma, vediamo un po' come la più appropriata per questa discussione è appunto il Comitato di Dialogo Sociale per il football, per il calcio professionale a livello europeo. Immagino chiaramente che andiate a braccetto, così come del resto è noto, con l'UEFA di Messier Platini, che ha introdotto questo fair play finanziario, che pure non sarà uno strumento perfetto, ma quantomeno è una spia che si accende quando il quadro va fuori sincrono, insomma. Sì, questo, diciamo, ci sono molte tessere di questo mosaico, di questo puzzle della solidarietà. Il sistema dei trasferimenti, di cui appunto lo studio che abbiamo pubblicato è un po' la fotografia, è un elemento importante. C'è l'aspetto dei diritti televisivi, sicuramente forse il più importante, per cui anche lì, per esempio, la vendita collettiva dei diritti televisivi è alla fine forse uno dei modi più efficaci per garantire questa solidarietà. E poi c'è appunto quello che l'UEFA sta facendo con il fair play finanziario, quindi cercare di stimolare le società a non spendere più di quello che riescono a guadagnare. L'UEFA ha messo in atto questo fair play finanziario per le squadre che partecipano alle sue competizioni, quindi Champions League e l'Europa League, ma osserviamo che lo stesso tipo di misure adesso viene replicato a livello nazionale. Proprio la settimana scorsa la Premier League inglese ha in pratica messo in atto una specie di fair play finanziario per le squadre della Premier League. La Francia sta riflettendo a fare insomma un po' lo stesso per la Lega francese, quindi diciamo c'è un effetto anche di domino, per cui questo tipo di misure vengono adottate anche a livelli più bassi della competizione. Sicuramente è positivo in quanto stimola appunto un'attenzione maggiore alle spese e previene appunto l'indebitamento eccessivo delle squadre di calcio. Gianluca Monte, responsabile dell'unità sport, direzione generale, istruzione e cultura della Commissione europea, buon lavoro e grazie per essere stato nostro ospite oggi a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie mille a voi. A Bordo Campo. Combattere il bullismo e il doping, è questo l'obiettivo di una campagna che è stata recentemente presentata a Roma presso l'Università degli Studi di Tor Vergata e si tratta di fatto di un progetto sostenuto dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Doping. E proprio di questo oggi parliamo qui a Bordo Campo con il presidente dell'Osservatorio Nazionale del Bullismo e il Doping, Serena Parisi. Benvenuto, presidente. Grazie. Allora, presidente, grazie per aver accolto l'invito di A Bordo Campo, grazie, perché ci ha incuriosito subito sia l'iniziativa di cui ora parleremo, sia il fatto che la lotta al bullismo e quella al doping siano associate, no, nell'impegno dell'osservatorio. Ecco, ci spieghi subito quali sono i punti di contatto tra questi due argomenti così spinosi. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che il denominatore comune è la prevaricazione, che nel caso del bullismo è prevaricazione nei confronti di altri, quindi è una violenza, no, nei confronti di qualcun altro, mentre nel caso del doping io ritengo che sia una violenza nei confronti di se stessi. Ecco perché li abbiamo voluti considerare le due facce di una stessa medaglia, perché poi dietro entrambe queste forme di violenza c'è una grande insicurezza da parte di chi le pratica, anche se può essere così nell'immaginario. Considerare un ragazzo che compie, no, questi atti così nei confronti di altri coetanei, è difficile vederlo come un soggetto che ha dei problemi di autostima, e invece è proprio così, e in fondo anche in chi fa uso di sostanze dopanti c'è una grossa disistima, perché non fa appello alle proprie risorse ma si appoggia a sostegni esterni per raggiungere risultati che altrimenti non riuscirebbe, no, a raggiungere. Beh, insomma, la descrizione che fa magari ci rende difficile immaginare un ragazzo, ma abbiamo ben presente alcuni comportamenti di un Lance Armstrong, e direi che bullismo e doping in quella figura erano, ai noi purtroppo, entrambi ben presenti. Presidente, le chiedo, parlavamo di ragazzi, sì. Direi che la vostra attività proprio nei ragazzi e nei giovani e negli adolescenti ha il proprio obiettivo principale, quasi a voler inoculare un anticorpo contro queste due malattie della nostra società. È proprio la scuola l'ambiente ideale. Noi abbiamo un programma che prevede dei progetti che verranno presentati a molte scuole italiane. Abbiamo una serie di aiuti in questo senso da parte dell'associazione, per esempio dei carabinieri o dei sindacati di polizia, che ci mettono a disposizione le loro sedi per poter raggiungere il maggior numero di scuole italiane, perché, come giustamente lei sottolineava, la scuola è lì che avvengono tutte le metamorfosi più importanti, no, nello sviluppo della persona, e i ragazzi passano molte ore a scuola ed è lì che nascono e si praticano purtroppo questo tipo di violenze, ecco. Tra l'altro molti anche i campioni che sono scesi in campo al vostro fianco, no? Sì, ecco, questa è una cosa molto bella. Noi abbiamo una serie di medaglie olimpiche che si sono offerte di aiutarci a trasmettere questo messaggio splendido di amore proprio per se stessi e di amore per gli altri nel momento in cui si pratica lo sport in modo sano e nel momento in cui lo si testimonia anche a giovani, a giovanissimi, affinché sviluppino e si focalizzino sui valori e non sulle scorciatoie per poter raggiungere dei risultati nella vita. Purtroppo la nostra società ci spinge a bruciare le tappe e ad essere i più forti, ad essere i migliori, e questo è una spinta difficile della nostra, no? È il motivo per cui le ragazze fanno delle diete pazzesche pur di essere magre, belle, efficienti, devono essere brave a scuola, devono certo, essere assolutamente la ricerca della performance a tutti i costi. Vogliamo fare qualche nome dei campioni che sono al vostro fianco? Sì, certo. Carlo Molfetta, taekwondo. Poi per il pugilato abbiamo Clemente Russo, Cammarelle, Vincenzo Mangiacapre, per il nuoto Ilaria Bianchi. Insomma, abbiamo veramente un... L'eccellenza dello sport italiano a fianco dell'Osservatorio Nazionale contro il bullismo e il doping. Ecco, parliamo però dei progetti, qualcuna delle iniziative concrete che state proponendo nelle scuole italiane. Sì, noi faremo questo. Andremo con i campioni perché vogliamo unire alle emozioni una metodologia. Quindi, poiché ci rivolgiamo a bambini della scuola elementare, scuole medie e liceo, quindi ragazzi del liceo, naturalmente abbiamo dei protocolli diversi a seconda, no, del target, e andare a parlare a dei bambini delle elementari di metodologia naturalmente non serve, quindi a loro dobbiamo dare delle emozioni, ecco perché i campioni, ci sono dei filmati, dei video, devono ricordarsi, legare la parola dell'osservatorio a delle immagini che ricorderanno nel tempo, e agli insegnanti invece diamo una metodologia che dovranno poi applicare in 3-6 mesi, dopodiché quindi facciamo una rilevazione all'inizio del nostro intervento e poi nel corso del progetto, e alla fine verranno poi rilevati di nuovo i dati, quindi verranno somministrati dei questionari ai bambini che rimarranno comunque anonimi per vedere il tipo di cambiamento che c'è stato a seguito del progetto. Ecco, le chiedo quello che faremo. Le chiedo ancora, Presidente, abbiamo un'estensione di questo fenomeno, di questi fenomeni, di che numeri stiamo parlando, soprattutto in termini di rischio potenziale, no? Perché ecco, sappiamo sì, che gli atleti di elite hanno già i loro bei problemini col doping, certo, eccetera, eccetera, ma il rischio potenziale è soprattutto per le generazioni future. Sì, infatti, è veramente raccapricciante vedere come intanto c'è una grossa disinformazione, perché per esempio ci sono dei quindicenni, molti quindicenni che non sanno, non capiscono la differenza fra l'assunzione di un prodotto chimico che può essere già considerato doping rispetto a un integratore, no? Quindi loro ritengono che prendere un farmaco per essere più forti sia una cosa positiva, pensano che sia una cosa che possa aiutare il fisico, no? Quindi già questa confusione in ragazzi così giovani è preoccupante, perché questo significa che poi facilmente possono incorrere in questo pericolo. L'altra cosa che volevo segnalare è che in effetti è molto molto diffuso, molto diffusa la pratica, l'assunzione di sostanze dopanti non fra gli atleti professionisti, che non raggiunge, pensate, nemmeno l'1%, no? Invece a chi pratica lo sport amatoriale. Ci dovremmo chiedere, no? Ma perché chi pratica sport amatoriale deve ricorrere al doping? E le motivazioni possono essere tante, può essere emulazione, no, di sportivi professionisti, oppure semplicemente per emulare magari il vicino di casa che ha un fisico eccezionale, no? Riesce, oppure per oltrepassare i propri limiti, o semplicemente magari perché l'allenamento è faticoso e quindi cerca di renderlo, oppure perché ritiene che il proprio fisico sia debole, no? E quindi si aiuta senza rendersi conto che in questo modo si accorcia la vita. Questo dovrebbe far pensare, direi. Questa cosa, sì, no? Beh, direi che alla fine con questa risposta siamo tornati al tema del bullismo e ci ha chiarito chiaramente come due argomenti siano strettamente interconnessi, soprattutto nell'attività del suo osservatorio. Allora, Serena Parisi, presidente dell'Osservatorio nazionale sul bullismo e il doping, direi che il lavoro non vi manca, e quindi un grazie, un in bocca grazie al lupo, e un grazie, grazie soprattutto per essere grazie state ospiti oggi qui a Bordo Campo. Grazie e complimenti per la trasmissione. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Un saluto da Dario Ricci.